Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Paolo Mularoni e il gruppo del Conca. Da San Marino, 40 anni di ceramiche. Di Adriano Palazzolo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'America è il sogno di tanti italiani con la voglia di ricominciare. Nel 1949, Cino Mularoni è un giovane sammarinese che si imbarca alla volta di Detroit per cercare un futuro migliore. Da qui parte la storia di Ceramica del Conca, un gruppo di aziende che ha sede a Faetano, piccolo comune o più propriamente castello della Repubblica di San Marino. A raccontarci che cosa succede dall'arrivo di Cino negli Stati Uniti è Paolo Mularoni, suo nipote, oggi presidente del gruppo. Mio nonno, Cino Mularoni, è emigrato nel 49 nella zona di Detroit, dove era già presente una comunità di sammarinesi. Infatti al tempo era necessaria la chiamata, cioè da parte di qualcuno, normalmente un parente o un amico emigrato prima in un momento precedente, che chiamasse il nuovo arrivato. E arrivato lì insieme a mia nonna, lavorato nel campo della costruzione, ma soprattutto nella costruzione in calcestruzzo, fondando dopo pochi mesi una sua attività di nome Titanus, cioè che è ispirata al monte di San Marino, il monte Titano, e questa attività è ancora aperta tutt'oggi, e soprattutto diciamo ha avuto la possibilità di vedere i frutti del suo lavoro, insomma crescendo un'attività fin da subito. Diciamo gli Stati Uniti sono stati il posto dove si è formata la sua imprenditorialità e questa visione che tramite il lavoro e la determinazione è possibile fare grandi cose. Gli affari nel settore del calcestruzzo vanno bene, ma Cino pensa all'Italia. Nel frattempo la famiglia si allarga, arrivano due figli, Enzo Donald e Jeanette, che crescono negli Stati Uniti, fino a quando nei primi anni 60 viene presa una decisione: si torna a casa. Mio nonno è di San Marino, sammarinese, e infatti il suo desiderio, la sua idea è sempre stata quella di tornare poi in un futuro a casa. Torna nel 1960 e successivamente fonda, porta quello che aveva visto, quello che aveva imparato negli Stati Uniti, e quindi porta la sua esperienza sia imprenditoriale che tecnologica, e fonda una società di calcestruzzo autotrasportato. Era veramente fra le prime in Italia, e quindi un'operazione su vasta scala, con anche cave, mulini e varie centrali di betonaggio, fino al 79, quando ha trovato un accordo per vendere l'intera attività in blocco, e quindi ha deciso di cambiare interamente attività, e ha quindi rilevato, insieme a mio padre che nel frattempo aveva cominciato a lavorare con lui, la ceramica, che al tempo si chiamava Ceramica San Clemente, cioè un piccolo stabilimento nel comune di San Clemente, nell'entroterra di Riccione. Conoscendo il campo delle costruzioni, Cino Mularoni e il figlio Enzo Donald vedono del potenziale nella ceramica di lavorazione industriale, un prodotto nuovo al tempo che si affaccia in Italia nella seconda metà degli anni 60. Oltre allo stabilimento nell'entroterra di Riccione, la famiglia possiede già delle quote di un opificio ceramico a Faetano, il paese di origine. Questa azienda viene acquisita nel 1980. È la fase dello sviluppo tecnologico che accompagnerà il gruppo del Conca fino ai giorni nostri. Negli anni 80, diciamo, la tecnologia evolve. Faetano è la prima azienda a fare monocottura, perché fino a quel momento, anzi per anche molti anni, aziende hanno continuato a fare bicottura, ovvero cuocere prima il supporto, poi applicare lo smalto e ricuocere nuovamente il prodotto. Invece in un slancio di fiducia verso questa nuova tecnologia, mio nonno ha deciso di dare fiducia a questa nuova ritrovato, che è effettivamente poi si è rivelato la tecnologia vincente, in quanto attualmente, se non per piccoli prodotti di nicchia, non viene più effettuata bicottura, ma si tratta solamente di monocottura. Anche la produzione del grès porcellanato, che è sempre un prodotto ceramico ma di maggiore prestazione, cioè di maggiore resistenza all'usura e maggiore resistenza ai graffi, è un prodotto che è stato sviluppato successivamente nei primi anni 90 e è subito stato dato spazio anche a questa nuova tecnologia. Ma in anni più recenti, 5 anni fa, siamo stati non i primi ma sicuramente fra i primissimi a produrre piastrelle di forte spessore, di 2 cm di spessore, e siamo adesso fra i riferimenti principali sul mercato per questo particolare e innovativo prodotto. Nel corso degli anni non sono mancate pagine tristi in questa storia. Il 1992 vede la scomparsa del fondatore Cino Mularoni, mentre ad agosto 2016 muore anche Enzo Donald, che lascia l'azienda ai 3 figli, Paolo, voce narrante di questo racconto, Davide, che si occupa dell'area commerciale e sviluppo, e Marco, che si occupa dell'area prodotti. Ma oltre alle difficoltà private, ci sono stati anche momenti complicati legati al mercato. Di difficoltà senz'altro negli anni 80, quando comunque il mercato ha avuto fasi alterne, con fasi anche di forte crisi, e le nuove tecnologie impiegate non sono state immediatamente messe a punto, e quindi hanno causato momenti di grande preoccupazione. E poi negli anni più recenti sicuramente la grande crisi, che a partire del 2008 ha visto un ridimensionamento drastico del mercato italiano, e che quindi diciamo ha ulteriormente sottolineato l'importanza dell'export. Il gruppo Ceramica del Conca ha chiuso l'ultimo fatturato arrivando a quota 150 milioni di euro. L'export pesa per l'80% e i mercati di riferimento sono i paesi europei, come Francia, Germania, Belgio, Olanda, ma anche il Nord America e in particolare gli Stati Uniti, dove da poco è partito un nuovo progetto che ha portato all'apertura di un impianto a stelle e strisce. Siccome Del Conca ha cominciato a esportare negli Stati Uniti dai primi anni 90, i tempi sono maturati e il mercato è maturato per poter avere una presenza produttiva anche negli Stati Uniti, o meglio, anche le aspettative del mercato sono molto salite, e quindi con una produzione locale è possibile servire in maniera molto più efficace il mercato, per cui è importante non solo il prodotto ma anche il servizio. La produzione è partita all'inizio del 2014. Lo stabilimento di Del Conca USA si trova a Loudoun in Tennessee, nell'est del Tennessee, e in questo momento stiamo raddoppiando la produzione, diciamo, perché siamo fiduciosi che in futuro possa continuare ad essere uno dei nostri mercati di riferimento. A comporre il gruppo di proprietà della famiglia Mularoni ci sono le aziende Ceramica Faetano, Ceramica del Conca, Pastorelli e Ceramica del Conca USA. Acquisizioni, nuove aperture, ampliamenti e ammodernamenti strutturali sono stati possibili grazie agli investimenti che per Paolo Mularoni, voce narrante di questa storia, sono fondamentali per la crescita. Investimenti, diciamo, sono sempre importanti e ne facciamo tutti gli anni, però nella storia dell'azienda sicuramente nel 2000-2001 per il raddoppio di Ceramica del Conca e successivamente per l'acquisizione di Pastorelli, poi ovviamente costruzione di Del Conca USA, che è stato un investimento di 50 milioni di dollari. ma attualmente, proprio in quest'anno, stiamo appunto investendo fortemente per un ammodernamento e ampliamento di pastorelli, per cui sono 35 milioni di euro di investimento, più il raddoppio di Del Conca USA, che sono 30 milioni di dollari. Quindi è un anno veramente epocale, che però ci permetterà di fare un salto di qualità e veramente offrire una gamma completa di prodotto. Cerchiamo di fare sempre un buon bilanciamento fra mezzi propri e finanziamento di terzi, però teniamo sempre molto di peso, prendiamo sempre molto, che crediamo sia molto importante l'autofinanziamento per dare, diciamo, possibilità all'azienda di investire senza indebitarsi troppo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.